24 mattino di Alessandro Milan. 7:21 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, 24 mattino in diretta fino alle 9. Nel nostro sondaggio oggi parliamo della vicenda di cronaca della rumena uccisa con un pugno a Roma. È tornato in carcere Alessio Burtone, il ventenne romano accusato appunto con il pugno di avere provocato la morte di Mari Cica, e quando è stato portato in carcere ieri una folla ha insultato i carabinieri, ha detto lasciatelo libero. Insomma, in carcere qualcuno dice non è giusto il carcere per lui. Noi vi chiediamo, secondo voi è giusto che sia tornato in carcere l'aggressore che con un pugno ha provocato la morte della rumena? Ne parliamo alle 8:30, voi votate su radio24.it. Ed ora, come di consueto, la lettura dei giornali. Manutencoop Facility Management, la manutenzione per i tuoi ambienti, vi presenta In Primo Piano. Martedì 19 ottobre c'è chi apre col patto di stabilità, l'Europa riscrive il patto, Il Sole 24 Ore e nuovo patto per l'Europa per La Stampa. Ma poi c'è chi sceglie i rifiuti, come il Corriere, torna alla guerra dei rifiuti, Repubblica, Rai, Masi blocca anche Benigni, le nuove vicissitudini della Rai. I giornali oggi si diversificano sulle aperture. Io voglio partire da una vera e propria lenzuolata che trovate a pagina 15 del Corriere della Sera. Adriano Celentano prende carta e penna e, come scrive in una premessa il direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli, viene pubblicato questo intervento senza essere minimamente corretto, perché questa è la condizione che ha posto Celentano. Rispettiamo dunque, scrive De Bortoli, le sue parolacce, gli errori di grammatica compresi. Non condividiamo molte delle cose scritte e meno male, scrive De Bortoli, che esci di rado, caro Adriano, e parli ancora meno. Adriano Celentano, l'italiano che precipita dalla Fiom ad Adro, il rock e il lento secondo Celentano. Ce n'è per tutti. La Fiom, che porta in piazza centinaia di migliaia di persone senza un incidente, dunque una cosa buona per Celentano. La Woodstock di Beppe Grillo, la purezza, la trasparenza di quei 120.000 che ha prodotto il grande miracolo della pulizia in contrasto a quei rifiuti riapparsi da qualche giorno. Un movimento, quello dei grillini, la cui voce si fa sempre più fragorosa. Promossi dunque da Celentano. Fini, non si vede un leader, ma dopo il discorso di Fini a Mirabello e quello dignitosissimo nel videomessaggio per difendersi dalla macchina ingiusta e distruttiva da parte di alcuni giornali, Fini è l'unico leader in grado di dialogare e mettere insieme. Promosso. Bossi invece è lento, lento per Celentano. Berlusconi non osa dirgli neanche ciò che è più elementare, cioè che il tricolore è quella cosa che ci distingue da quelli che parlano un'altra lingua, mentre è rock il preside di Adro, quello che ha tolto i simboli del sole delle Alpi. Bravo preside, tu sì che sei rock. Maroni è bravo, ha gestito bene l'ordine pubblico a Napoli, la polizia ha fatto la cosa giusta, poteva succedere una strage, mentre poi c'è il dittatore generale della RAI, così lo chiama Celentano, Mauro Masi, le cui stranezze ricordano tanto qualcosa che ha a che fare col periodo oppressivo e oscurantista. E dunque sta con Santoro. L'amico Veronesi, che accetta di in pectore di dirigere l'agenzia sulla sicurezza delle nuove centrali nucleari, un luminare apprezzato che rischia purtroppo di essere assai meno radioso nel futuro. Così dice Celentano. E poi Berlusconi, che per il fatto di vederlo realizzare il gesto delle corna, un capo del governo, siamo ancora al gesto delle corna, ci riempie di orgoglio a tal punto da giustificare e far passare in secondo piano le sue eventuali malefatte. Ed è qui che l'italiano precipita, così dice Celentano. Ed è qui il testo, anche il titolo di questa sua lenzuolata al Corriere, l'italiano precipita. Insomma, mai come ora, dice Celentano, è necessario che il buon esempio venga dal basso. Siamo noi italiani, dunque, che dobbiamo educare i nostri politici. Democrazia vuol dire anche perfezionare i toni durante un dibattito. Per esempio, Sgarbi è in ritardo di qualche decennio. Insomma, ci vuole modi, toni giusti, perfezionare i toni durante il dibattito. E sentite come conclude Celentano. Da anni Sgarbi dice sempre così: fascista, fascista, fascista. Ma vaffanculo Sgarbi, adesso ci hai proprio rotto i coglioni, con quattro punti esclamativi. Questo è Celentano, eh? Il tuo prevedibile e nauseante sbraitare è un registro vecchio, stravecchio come la guerra del 15-18. Che aspetti a cambiare? Lo sai almeno in che anno siamo? Stai pur certo che dopo anche Paragone ti molla. Non credere. Paragone è un giornalista che fa anche un programma in Rai. L'italiano che precipita, Adriano Celentano, che è la firma del pezzo, pagina 15 sul Corriere della Sera. Pubblicità e meteo, rientriamo. In primo piano. 7:34 minuti, allora, da che cosa ripartiamo? Beh, ripartiamo dalle polemiche legate alla TV, perché ancora la Rai nel mirino. Romani attacca report odioso, questo il neo ministro Romani allo sviluppo economico, anche Marco Mele ne parla sul Sole 24 Ore, pagina 25, sempre nel centro del mirino la puntata di Milena Gabalelli su report, quello in cui si è parlato delle proprietà immobiliari e i legami con Silvio Berlusconi ad Antigua. Romani attacca report odioso, un po' ovunque lo trovate, ma tra l'altro il vero retroscena c'è su La Stampa. Gabanelli, via la tutela legale, adesso Masi pensa al blitz. Paolo Festuccia, pagina 5 della Stampa, racconta di come il direttore generale della RAI, Mauro Masi, stia pensando da giorni, almeno da mercoledì scorso, quando si è fatto passare al telefono Milena Gabanelli per raccomandarle prudenza sulla prima puntata di Report, togliere la tutela legale alla giornalista, la cosiddetta manleva, e al suo programma d'inchiesta. Operazione già tentata nel 2009, che ora resta la prima opzione del capo della TV pubblica per frenare una certa irruenza giornalistica nei servizi d'inchiesta. Staremo a vedere, anche se Libero con Franco Bechis dice: ecco subito svelato chi è il venditore. Il report anti-CAV dura solo 24 ore, cioè si chiedeva a Milena Gabanelli da chi ha comprato i terreni Silvio Berlusconi per l'acquisto delle sue ville ad Antigua. Ebbene, Franco Bechis dice: eccolo qui, smontato lo scoop in un giorno, perché l'avvocato, il proprietario della Flat Point Development, l'avvocato Carlo Postizzi, ha svelato il mistero che tale non era. Devo precisare, ha detto questo avvocato, che il gruppo della società Emerald Cove Flat Point del 2001 fa capo alla società Capomar Holding NV, controllata giuridicamente ed economicamente da me come azionista di riferimento, e da altri azionisti minoritari e anche dal signor Michael Berry, cittadino irlandese. Tutti questi soggetti nulla hanno a che fare col presidente Berlusconi e il suo gruppo. Questo è il comunicato di questo avvocato Postizzi, che dice Libero, ecco, svela chi è il venditore. Insomma, oggi graffiante Vauro in prima pagina del Manifesto, ci sono Berlusconi e Fini ritratti. Berlusconi ha due mega ville ad Antigua e Berlusconi dice a Fini: pezzente. Ma come detto, la RAI è in primo piano anche perché Repubblica decide di dedicarvi l'apertura di prima pagina per la nuova vicenda, quella che riguarda il programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano. Rai, Masi blocca anche Benigni, questo è il titolo di prima pagina di Repubblica, una notizia che c'è su tutti i giornali ma che su Repubblica viene data in prima pagina. Vale a dire, non è stato firmato i contratti perché considerati troppo onerosi con i vari ospiti del programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano, che devono fare 4 serate su Rai 3. Tra questi c'è Benigni, ma anche il comico Paolo Rossi, il comico albanese. Hanno paura dei contenuti e io senza ospiti non vado in onda, così Roberto Saviano, intervistato da Repubblica a pagina 3 da Leandro Palestini, dice: c'è semplicemente in Rai la voglia di parlare chiaro da parte nostra sull'Italia di oggi, non di parlare male del paese, ma di dire le cose come stanno. Questo è il senso del nostro programma. Hanno bloccato gli ospiti i contratti con Benigni, con Bono, il cantante degli U2. Avevano accettato anche con entusiasmo, nonostante il programma sia stato spostato d'imperio dal mercoledì al lunedì contro il Grande Fratello. Le ragioni sono economiche, chiede Leandro Palestini, e Saviano, può darsi che siano economiche le ragioni accampate. In realtà i contratti erano stati chiusi a condizioni molto vantaggiose per l'azienda, soprattutto gli spazi pubblicitari erano andati a ruba. Ce lo spieghi lei, cosa sta succedendo in Rai? Io so che ci è stata chiesta la scaletta del programma, io e Fazio l'abbiamo consegnata a Masi senza tenere nulla nascosto. Ho detto che nella prima puntata io, Fazio e Benigni vogliamo occuparci delle proprietà di Berlusconi, poi io intendo parlare di mafia e di camorra, nelle altre puntate voglio affrontare la cosiddetta fabbrica del fango. Insomma, la reazione? Ufficialmente il silenzio. Nessuno ci ha detto nulla, ma da quando hanno conosciuto i contenuti è cominciato un tentativo continuo di rimpicciolire le trasmissioni, tagliando i figuranti, dimezzando lo studio, non firmando il contratto con la Endemol che produce il programma, infine azzerando gli ospiti. E dice Saviano, una cosa sola so, senza Benigni io non vado in onda. Insomma, la situazione Rai è la situazione che sta tenendo in scacco la politica, anche perché la politica è un po' ferma finché Berlusconi non ritorna a Roma e non finisce la convalescenza dopo l'operazione alla mano sinistra. Pare che tornerà domani, oggi era atteso alla Corte dei Conti con il presidente Napolitano, ma fa sapere Libero, ha rinviato anche questo appuntamento e ritornerà domani quando è atteso un importante ufficio di presidenza del partito, perché il partito, il Popolo della Libertà, è ciò che è più nella testa in questo momento a Silvio Berlusconi, almeno giudicare dai vari articoli di giornali, cioè come cambiare il Popolo della Libertà, questo partito che lo stesso Berlusconi ha criticato pubblicamente. Ricetta Cav per il PDL, più democrazia ma alla fine decido io, è Salvatore Dama che racconta secondo me le cose più interessanti, i retroscena più interessanti di come Berlusconi starebbe approntando il nuovo partito, lo fa su Libero. Salvatore Dama dice, cita per esempio il punto 6 della delibera che dà il via ai congressi locali del PDL, perché attraverso i congressi locali bisognerà eleggere i nuovi reggenti di tutta Italia del partito. Testuale, sentite questo punto: il presidente, cioè Berlusconi, può, ove sussistano ragioni particolari di opportunità, a suo insindacabile giudizio, senza l'obbligo di motivare la decisione, non dare seguito alle indicazioni delle assemblee, cioè ovvero quelle che dovranno eleggere i coordinatori regionali, provinciali delle grandi città del PDL. Cioè si tratta di questo, secondo Salvatore Dama. Si apre la stagione congressuale dei quadri intermedi locali, democrazia o quasi, perché Berlusconi ha l'ultima parola su tutte le scelte. Se non gli sta bene l'elezione di un coordinatore, può impugnarla e metterci un altro al suo posto. Insomma, ecco qui il titolo, più democrazia ma alla fine decido io. E tra l'altro sul nuovo Popolo della Libertà, visto che ieri Galli della Loggia sul Corriere ha fatto un editoriale dicendo il partito deve cambiare, deve muoversi e suggeriva anche come, oggi sia Gianfranco Fini sia Sandro Bondi, uno dei tre coordinatori del partito, scrivono la lettera, entrambe pubblicate sul Corriere della Sera. Gianfranco Fini a pagina 14, rivendico il mio diritto a cambiare opinione, me ne assumo la responsabilità, l'accusa da cui parte Fini è questa, Galli della Loggia mi ha sbrigativamente liquidato come l'ultimo segretario del partito neofascista, io non nego ciò che sono stato, non nego il mio passato, tuttavia rivendico il diritto di cambiare opinione assumendone tutte le responsabilità, accade di cambiare opinione. E poi Fini rinfaccia ancora a Berlusconi, dice la questione della leadership, la leadership berlusconiana non ha consentito e forse nemmeno voluto la creazione di un vero partito organizzato e strutturato come tale, portatore di esigenze, centro di relazioni con ambienti e personalità diverse, elaboratore di proposte, collettore di idee, centro effettivo di decisioni vincolanti per tutti, anche per i suoi capi. E poi batte ancora sul tema della legalità. Insistiamo su questo tema, scrive Gianfranco Fini, perché in Italia il rispetto delle regole è sempre più considerato un'opzione e non un dovere. Nella lettera invece di Sandro Bondi, Bondi dice la rottura con Fini è avvenuta non in seguito a una decisione improvvisa e solitaria di Berlusconi, ma dopo che l'intera classe dirigente del Popolo della Libertà, interpellata da Berlusconi, ha più volte all'unanimità ritenuto che fosse impossibile sopportare un'opposizione così radicale all'interno del partito della maggioranza di governo. E poi ancora aggiunge Bondi, ormai non ho più fiato e forza per far comprendere come in realtà un vero partito sia effettivamente nato in questi anni, oltretutto l'unico partito che può vantare una nuova classe dirigente con un rinnovamento generazionale sconosciuto a tutti gli altri. partiti. Sarà, sta di fatto che per Libero, sempre per Libero, eccola qua la partita del centrodestra. Giulio o Alfano, sfida per la successione. E insomma, si parla esplicitamente in un articolo di Gianluca Roselli, a pagina 9, di successione a Berlusconi. Chi sale? Tremonti. Chi è il suo più temuto rivale? Alfano. Poi ci sono gli ex di AN, La Russa, Gasparri, Alemanno e Matteoli, che vogliono riappropriarsi del partito. Infine c'è lui, il divino Roberto Formigoni, che aspetta da una vita di fare il grande salto nella politica nazionale. Insomma, questo è il clima politico, ma domani è atteso il ritorno di Berlusconi a Roma e sicuramente succederà qualcosa. Noi parleremo di rifiuti alle 8:20, sarà il nostro ospite il questore di Napoli, Santi Giuffrè. Voglio ricordare, nella notte ci sono stati ancora incidenti e tra l'altro su questo tema trovate l'apertura del Corriere della Sera, torna la guerra dei rifiuti. E a pagina 2 i timori di Maroni, linea dura sui blocchi, ma evitare che diventi una questione politica. La direttiva ribadita proprio dopo gli scontri di ieri al prefetto e al questore di Napoli è quella di rimuovere i blocchi stradali prima possibile. Certo, però la situazione è tesa e difficile. C'è anche un'intervista che segnalo all'Unità del sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, che dice a Federica Fantozzi: la situazione è gravissima, abbiamo 80 compattatori zeppi di rifiuti nei depositi, 600 tonnellate più 500 per strada, si è fermato il termovalorizzatore di Acerra, l'intero sistema si è bloccato, tra 5 giorni dovrebbe rifunzionare, i soldi per altri 2 termovalorizzatori non sono mai arrivati. Riguardo agli scontri dice: in nessun caso approvo la violenza, ma comprendo la preoccupazione delle mamme, la verità è che il piano per la localizzazione delle discariche varato dal governo non sta in piedi. Riguardo alla raccolta differenziata dice: ci sono difficoltà, possiamo farla solo in alcuni quartieri, 400.000 abitanti su 1 milione. Stato e commissari non ci hanno dato né soldi né rimborsi di spesa. Insomma, sempre la solita litania per fare la raccolta differenziata, che in gran parte dell'Italia, in gran parte anche di paesi, anche della campagna, si fa. Si chiedono soldi invece di farla. Il traffico. In primo piano. Nel nostro sondaggio invece ci occuperemo di un altro tema di cronaca, quello di Roma, la morte della rumena alla stazione Anagnina a causa del pugno scagliato da Alessio Burtone, che ieri è tornato in carcere. Vi chiediamo, secondo voi, decisione giusta? Perché molti l'hanno contestata, il fatto che sia stato rimesso in carcere. Per esempio, ieri quando sono andati i carabinieri ad arrestarlo, una folla, l'intero quartiere, il Messaggero ne parla, pagina 2 e 3, la follia degli ultrà. Alessio, uno di noi, mentre di quella là non ci frega niente. In tanti non ci stanno, invece dicono ha ucciso una donna, questa gente è impazzita. Ma certo, un intero quartiere a gridare Alessio libero, a insultare invece quella che è la vittima che è diventata in qualche modo la colpevole. Tanto che Claudio Marincola sul Messaggero firma in prima pagina un editoriale dal titolo Fermezza, è l'editoriale del Messaggero. Se un appassionato di pugilistica per un banale diverbio alla stazione Anagnina sferra un diretto al volto a un'infermiera di 32 anni e le toglie la vita, costui, cioè il palestrato, finisce in galera e sconta la pena che i giudici riterranno più giusta, sia esso italiano, rumeno, ucraino o neozelandese. Una violenza così brutale esige tolleranza zero e pene esemplari. Altre possibilità non sono previste. Non ci può essere tolleranza, qualsiasi forma di generosità equivarrebbe a una grave indulgenza. Il carcere per Alessio Burtone è la conseguenza obbligata del suo muscolare misfatto. Qualunque decisione diversa da questa porterebbe alla clonazione degli Alessio Burtone, alla moltiplicazione degli arroganti e dei violenti, e francamente non ce lo possiamo permettere. Certo, però è stata molto contestata, in cella l'uomo del pugno mortale, gli amici insultano i carabinieri, lui dice ho paura del carcere, questo anche per il Corriere della Sera, e anche La Stampa con Fulvio Milone fa reso conto proprio di quello che è stato l'arresto, incredibile per certi versi, con una folla che ha cercato di che ha insultato i carabinieri, ha accusato il sindaco Alemanno di essere diventato il sindaco di Bucarest, sempre pronto a schierarsi con loro sarebbero i rumeni, con una donna rumena che c'è morta in questa situazione, gli amici del giovane che uccise la rumena nel metro, Alemanno è il sindaco di Bucarest. Trovate molto sempre per la cronaca, lo cito solo, ma è l'apertura di diversi giornali, questa vicenda che ha portato all'arresto di un finanziere arrestato perché accusato di passare a un giornalista di Panorama, Giacomo Amadori, tramite la consultazione del sistema Serpico, il famoso sistema Serpico di cui abbiamo parlato, varie informazioni sulla radiografia patrimoniale di chi? La famiglia Agnelli, Di Pietro e moglie, Beppe Grillo, Marco Travaglio, Patrizia D'Addario, il giudice Mesiano, cioè quello che ha condannato la Fininvest a pagare in primo grado 750 milioni di euro alla CIR di De Benedetti, quello famoso dei calzini turchese. Chi tocca i fini muore, questa è l'apertura di Libero, attacco ai giornali di destra e anche il giornale, anche Panorama nel tritacarne, la visione diversa, opposta per il Fatto Quotidiano. Panorama di spiati, il settimanale di Berlusconi si serviva di un finanziere per controllare politici, magistrati, giornalisti, nemici del capo, e anche l'Unità titola in prima pagina censurano e spiano. Troverete sui giornali il ritorno di Dino Boffo. Ve lo ricordate certamente. Dino Boffo è stato nominato da Bagnasco a capo della TV dei Vescovi, TV 2000. C'è solo un corsivo su Avvenire, ex direttore di Avvenire, che si è dimesso dopo la campagna molto aggressiva di Vittorio Feltri proprio sul giornale. Buon lavoro Dino, una ricchezza umana e professionale come quella di Dino Boffo doveva tornare a essere spesa da suoi colleghi. Noi di Avvenire siamo orgogliosi e felici che questo avvenga in uno dei grandi media di riferimento del mondo cattolico italiano. A Dino un abbraccio affettuoso, a lui e a tutte le belle forze di TV 2000 un fraterno caldissimo augurio di buon lavoro. Insomma, un sobrio comunicato di auguri, niente di più, nessun riferimento alla vicenda passata. Per quel che riguarda l'economia, io ricordando che Oscar Giannino si occupa del patto di stabilità con cui apre il Sole 24 Ore, il nuovo patto di stabilità firmato in Europa, con cui apre il Sole 24 Ore oggi, ricordo che c'è ancora, per quel che riguarda l'evasione fiscale, un interessante articolo riguardante la lista falsi ANI, ve la ricordate, l'ex dipendente dell'HSBC, la banca che ha trafugato una lista che poi è stata messa a disposizione delle autorità dei vari paesi. Per la lista falsi ANI in programma 5.200 controlli, finora la Guardia di Finanza ha contestato redditi per 30 milioni, potete leggere tutto a pagina 7 del Sole 24 Ore. Che dire, voglio chiudere semplicemente con una notizia che trovate in prima pagina di Repubblica. Gli italiani siamo campioni di Facebook. Gianluca Nicoletti mi odierà, ma io odio Facebook e quindi non so che dire. Siamo maniaci di Facebook, quasi 7 ore al mese. Io ci sono su Facebook, ma non so neanche come si usa. Questo lo annuncio a tutti quelli che mi scrivono, sperando in una inutile risposta. Siamo la nazione al mondo che trascorre più tempo su Facebook, 6 ore e 27 minuti al mese in connessione con amici vecchi e nuovi, amici vecchi e nuovi, contro le 6 ore degli Stati Uniti, le 4 ore e 12 minuti con ogni 4 settimane dei francesi. Più che una moda, Facebook sembra una febbre, una seconda pelle, una dipendenza, un bisogno. Così ne scrive Maria Novella De Luca, italiani campioni di Facebook, in prima pagina di Repubblica, poi l'articolo all'interno a pagina 23. Siamo i campioni del mondo, quelli che stiamo più al mondo su Facebook. E viva l'Italia anche per questo. Ma allora ci fermiamo il GR, rientriamo subito dopo. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan per la nostra intervista. Saluto oggi e ringrazio il questore di Napoli, Santi Giuffrè. Dottor Giuffrè, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, a Terzigno è stata un'altra notte di scontri. Intanto, se ci può dare le ultime notizie, abbiamo letto di gente ferita, tra le forze dell'ordine anche di alcune persone fermate. Sì, abbiamo 5 arresti, abbiamo dei feriti purtroppo altrettanto di non grande entità. È una notte pesante che ha denotato ulteriormente una grande professionalità di poliziotti, carabinieri, finanzieri, questa volta inevitabilmente dovutisi schierare e dovutisi fronteggiare una situazione che era diventata impossibile. Siamo stati oggetto ripetuto di lancio di pietre a cui non ci siamo potuti sottrarre, quindi a questo punto sicuramente abbiamo dovuto spingerci e riconquistare il territorio di Terzigno. Regno. Senta, riconquistare il territorio per una questione di rifiuti, insomma, non è una bella immagine, insomma, però questa è la situazione. E però lei sa che ieri sono state adottate dei provvedimenti che in parte hanno raccolto le istanze della gente di Terzigno, si sono autorizzate discariche in altre province, almeno per un breve periodo, e poi insomma dopo un mese bisogna anche capire che i cambiamenti normativi vanno fatti in altra sede, non sulla piazza. Senta, avete notizie di infiltrazioni, cioè chi manifesta, di persone anche della criminalità organizzata? Lei ha parlato si è parlato tanto di donne e bambini, abbiamo avuto invalidi, certamente stanotte quando è iniziata la sassaiola fitta contro di noi le donne sono andate via. Quindi c'è un'organizzazione che certamente riesce a gestire quantomeno i tempi dell'attacco alle forze dell'ordine. Cioè le dice davanti mandano le donne, però poi al momento degli attacchi. Di fatto, certamente nel momento di grande attacco da parte loro non c'erano più donne e bambini, quindi c'è un'organizzazione certamente che gestisce quantomeno la fase militare del contrasto, che si avvale anche di presenze femminili, ma non soltanto di presenze femminili. Dal Viminale leggiamo dai giornali, insomma lei è stato in contatto ieri sia con ovviamente il capo della polizia Manganelli che a sua volta ha riferito al ministro Maroni, si parla di blocchi da rimuovere, questa è la linea, i blocchi vanno rimossi perché la spazzatura va sversata, però a quale costo quest'ora, nel senso che la situazione è sotto controllo, sono diciamo tafferugli temporanei o purtroppo... No, non sono solo tafferugli, sono autentiche barricate che stiamo rimuovendo con le pale dei vigili del fuoco, del reparto mobile di Napoli, non è una cosa ben organizzata, no? La parola tafferugli credo che a questo punto, con ripetuti feriti da parte delle forze dell'ordine, con ordigni che continuano ad essere trovati come questa notte, sia un po' riduttiva. È meglio cominciare a chiamare le cose col loro nome. Lei come la chiama? Guerriglia? Questa è guerriglia. C'è una legge che va rispettata, sarà non gradita alla popolazione, ma le leggi si cambiano in Parlamento, insomma, non sulla strada. Senta, non è proprio il suo lavoro, ma il sindaco di Quarto ha detto tenetevi, visto che la situazione è questa, cari cittadini, tenetevi i rifiuti in casa fino a mercoledì e poi vediamo di risolvere. Potrebbe essere questo un compromesso? Insomma. Devo anche sentire il sindaco di Quarto che giustamente si è visto bruciare alcuni compattatori, danneggiati altri, e allora quello che si dice in queste circostanze va ovviamente rivisitato con maggiore serenità. È la risposta di un sindaco che si è visto giustamente bloccato nelle proprie operazioni di discarica, con danni enormi ai propri mezzi, e quindi insomma si sarà appellato al buon senso dei suoi concittadini, ma penso che non posso fare io l'interpretazione del pensiero del sindaco di Quarto. Io posso essere portatore di una verificata per un contatto diretto eccessiva situazione di pesantezza in cui il sindaco di Quarto giustamente ritiene di essere stato sottoposto. Un'ultima domanda a quest'ora, le prossime ore, i prossimi giorni, lei li vede con ottimismo o purtroppo teme di no? Io credo che l'apertura grossa che ieri è stata fatta, la disponibilità a versare in parte nelle altre province, è una grande sensibilità, una grande volontà delle autorità di affrontare il problema non solo sulla strada. Certo, la situazione non è rosea, ma ripeto, non si può pensare di cambiare con la guerriglia occupando militarmente un territorio per un mese ormai, mettendo in serie difficoltà anche gli altri comuni. La ringrazio per essere stato con noi, ovviamente. Buona giornata a quest'ora di Napoli. Grazie. Santi Giuffrè, grazie per essere stato con noi in diretta e la situazione di Terzigno che monitoreremo ovviamente continuamente. Intanto, che dire, pubblicità e meteo e poi parliamo del nostro sondaggio di questo episodio di cronaca, l'arresto di Alessio Burtone, ieri tradotto in carcere, colui che con il pugno ha causato la morte della rumena alla stazione Anagnina, accolti i carabinieri da una folla che diceva lasciatelo libero, ha fatto forse una cazzata così, ma non deve andare in carcere. Noi vi chiediamo invece, secondo voi, decisione giusta il carcere? A tra poco. 24 mattino. Alle 8:35 minuti parliamo del fatto di cronaca che ha coinvolto Alessio Burtone, ieri riportato in carcere, deve rispondere di omicidio preterintenzionale per l'uccisione della infermiera rumena Maricica Ghianu, nel nostro sondaggio di oggi. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È tornato in carcere, vi chiediamo la decisione giusta. Guardate, non è una follia, perché la follia è quello che è successo, è vero, erano 200 persone, ma prendete il Messaggero, la Stampa, il Corriere, qualsiasi giornale. Romena uccisa a pugni, Burtone arrestato, gli amici sotto casa, ieri una folla ha insultato i carabinieri. Il Messaggero, nel raccontare le fasi dell'arresto, dice... Scrive, si stenta a credere, Luca Lippera, si resta allibiti, è impossibile non provare vergogna, le frasi urlate, ovviamente vabbè, gli insulti alle forze dell'ordine, gli insulti ai giornalisti, ma questo come al solito ci stanno in queste cose purtroppo da parte di gente un po' così, ma poi tutto per una puttana rumena. Gliel'avrei dati io due cazzotti l'avessi incrociata una così. Ripeto, leggo frasi dal Messaggero. Realtà da brividi, ma realtà piccola, grande, non lo so, 200 persone, una parte del quartiere che ha cercato di dire Alessio, liberatelo, non ha fatto niente, ha fatto forse una cazzata, ma niente di più. Allora, io voglio salutare il vice sindaco di Roma, Mauro Cutruffo, buongiorno. Buongiorno. Così voglio, come voglio salutare Ramona Badescu, che è consigliere del Comune di Roma per i rapporti con la comunità rumena. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, vice sindaco. Badescu, vorrei partire da questa. Ha sentito queste frasi? Sono per carità poche frasi buttate nella folla, ma... Ma cioè... io non so dove si sta andando. Genitori che si ammazzano i figli, problemi di cronaca. Io non lo so, la società purtroppo sta andando in un tempo che non gli appartiene, perché dove sono i valori, dove la famiglia, dove sono le dove l'educazione, dove il dovere civico, il dovere morale, la bontà, non lo so, guardi, io rimango allibita, perché poi purtroppo io dico sempre questo problema è questo che è accaduto, che è molto grave, non lo voglio pensare come un fatto tra rumeni, italiani, un fatto etnico, lo voglio pensare come un fatto di grande violenza, soprattutto verso una donna, una violenza che poi è scaturita da una cosa stupida, e poi l'indifferenza della gente che ti passa accanto, e sulla terra poteva essere tua madre, tua figlia, poteva essere qualunque persona, quello è che mi preoccupa, la violenza e l'indifferenza. Certo. Vice sindaco, tra le frasi intercettate c'è anche questa: ormai il sindaco di Roma che ha chiesto il carcere, che è diventato il sindaco di Bucarest, sempre a difendere quelli là. Allora, come lo dobbiamo derubricare? Come una piccola minoranza così che si è fatta sentire in questo caso, oppure un segnale preoccupante, vice sindaco? Ma guardi, ovviamente queste sono frasi scellerate e che denunciano anche una certa ignoranza che purtroppo c'è. C'è anche, se non è ignoranza di tipo semplicemente o solamente culturale, lì Ramona ha ragione, una ignoranza sociale, diciamo così. Il sindaco ha espresso un sentimento logico, nel senso che nel momento in cui la lesione grave diventa omicidio preterintenzionale, l'arresto è pressoché inevitabile. Non è un omicidio colposo, non è un investimento per strada, un incidente di una persona che non ha né bevuto né si è drogato, ma un incidente, perché io ho sentito il ragazzo, sempre a qualche TG, che al citofono diceva è un incidente che può capitare a tutti. Beh, non è un incidente che può capitare a tutti, sì. Lui intendeva dire non questo in particolare, intendeva dire tutti hanno avuto una discussione nella loro vita, e il giornalista gli ha risposto: beh, per la verità fino a questo punto io non ne ho mai avute, giustamente, insomma. Quindi si capisce che il ragazzo vive in una sua realtà, che è una realtà anche evidentemente di reazioni violente, perché questa non era la prima, e quindi il magistrato, facendo uno più uno, ma anche il sindaco, hanno ritenuto l'uno professionalmente e nella proprietà delle azioni legittime il magistrato, l'altro emotivamente di dire A questo punto è necessario l'arresto. Quindi, ma secondo lei, perché anche oggi il Messaggero titola fermezza in prima pagina, cioè secondo me è abbastanza incredibile che si stia a discutere se stia o no in carcere, detto che poi dovrà avere un processo con tutta la, della difesa di tutto quello che siamo, visto siamo no in una società in cui c'è il diritto, quindi avrà diritto a tutta la sua difesa, ma secondo lei il carcere è una misura giusta, insomma. Il Manifesto dice altrimenti c'è il rischio, scusate il Messaggero, che una decisione diversa porterebbe alla clonazione degli Alessio Bortone, cioè l'idea che un gesto così violento possa in qualche modo, se non punito almeno in questa prima fase con il carcere, possa portare a una sorta di emulazione, cioè dire no, guardi, tolga pure la prima fase perché insomma siamo tutte persone responsabili, un minimo di diritto lo conosciamo, con tutte poi le leggi, per carità, che ci sono, che vanno incontro alla libertà personale eccetera, ma per un omicidio preterintenzionale c'è la condanna, non è che ci abbiamo sorprese, l'oscurità, l'ambiguità delle cose perché le prove non sono chiare. Ha visto come l'avvocato subito ha tentato di coinvolgere il personale medico? Perché non ha altre strade, ha scelto quella disperata di coinvolgere altre persone. Dice adesso, vedremo poi nel processo. Intanto devo dire che l'87% dice sì, è giusto che vada in carcere. Io voglio sentire 800 24 00 24, anche qualche ascoltatore, ovviamente ci state chiamando su questo. Sentiamo Vincenzo da Tivoli, per esempio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? Ma niente, io forse il mio giudizio è un po' forte, volevo dire che comunque è un gesto violento e come tale deve essere in qualche modo punito, però la cosa che volevo dire a tutte le persone che dicono ah sì, è un violento, va messo agli arresti, insomma, che ci sono realtà e realtà. Io vivo in una circostanza che è nel comune di Tivoli, dove la popolazione, ormai siamo diventati al 50% rumeni e 50% italiani, e questi gesti di strafottenza e di prepotenza nei confronti degli italiani sono alla portata di tutti i giorni. Si vedono persone che ti passano avanti, come in questo caso, che magari questo ragazzo ha avuto una reazione, ripeto, troppo violenta. Però ci mancherebbe. Certo. Però lei dice le tensioni, ha sentito Ramona Badescu? Sì, senta. Io ho sentito, sto ascoltando. No, sto per ascoltando. La questione si dice non se ne fa una questione etnica, però guardi che la questione etnica viene posta, non so, dalle persone che erano sotto a casa di Bortone al momento dell'arresto, insomma. Non... Ma sicuramente non c'è dubbio, stiamo vivendo e stiamo convivendo con tante etnie, con tante persone, ci si ha paura uno dell'altro perché non ci si conosce, c'è tanta fretta, non c'è la cultura dello straniero. In America per esempio non esiste la nozione straniero perché sono tutti stranieri. Ecco, dobbiamo affrontare questo periodo, l'integrazione è fondamentale, ma soprattutto l'integrazione sociale, e che parta anche dalle famiglie, perché mi creda, guardi, vado nelle scuole e incontro tanti bambini di tante nazionalità che poi dicono ma quello mi ha detto che sono straniero, quello ha paura di me, ma io non ho fatto niente. Non dobbiamo generalizzare assolutamente, non c'è chi è un rumeno educato, c'è chi è un rumeno non educato, c'è chi è un italiano educato, un italiano non educato, non, su questo non dobbiamo fare un'erba un fascio, perché se no non andiamo in nessuna parte in questo modo. Lei dice queste generalizzazioni. Sentiamo Paolo da Torino, buongiorno, lei come la vede? Buongiorno a voi, allora io vi disturberò per poco tempo, faccio due domande, la mia considerazione e poi vi lascio discutere. La mia prima domanda è questa: in Italia oggi come oggi cosa bisogna fare per finire in carcere? La seconda domanda è: a ruoli invertiti. Beh, è finito in carcere alla fine, insomma. Sì, sì, no, però voglio dire, ci sono comunque dei dubbi se fosse giusto o no mandarcelo. La seconda domanda è: a ruoli invertiti, cioè uomo rumeno che uccideva un'infermiera italiana, che cosa avrebbero scritto i giornali? Guardi, non so se tutti, io per la mia risposta posso dire sarebbe scatenato un inferno, ovviamente. Ma è chiaro, cioè non siamo ipocriti, se quel ragazzo, se Alessio Bortone fosse stato rumeno e questa donna fosse stata italiana, si sarebbe scatenato l'inferno, cioè non bisogna essere ipocriti su questo. Non so se il vice sindaco di Roma Cutruffola pensa come me, vice sindaco. Io non ce la più vado a fare ipotesi delle cose che però casi di cronaca ce ne sono stati, cioè non uguali, ma insomma che portano a riflessioni di questo tipo. Sì, adesso senza esagerare, Ramona ha detto benissimo, insomma, Ramona è una persona garbatissima e molto nota, famosa, una brava attrice, cantante, eccetera, ed è romena. Poi, come ha detto Ramona, ci sono altri romeni che viceversa, per la loro condizione di disagio, per un carattere diverso da altri, come succede con gli italiani. Quindi io non farei adesso altre ipotesi. C'è una vicenda brutta, dove c'è scappato il morto, è una mamma, c'ha un bimbo, una bimba, non ricordo, di 8 anni, un marito, una famiglia che lavorava tranquillamente qui in Italia, apprezzata da coloro i quali assisteva. Questa è la realtà, e questo ragazzo forse ancora non ha compreso che questo gesto, perché la morte è stata causata dalla caduta, dalla battuta della nuca contro il pavimento, sì, ma sì. Questa a sua volta è stata causata dal pugno. Ma questo, certo, questo è il gesto, ecco, gesto l'origine, insomma, è chiaro. Ci fermiamo un attimo per informazioni sul traffico, 800 24 00 24 se volete intervenire, oppure radio24.it per votare il nostro sondaggio. Come detto, per il momento l'87% dice sì, è giusto il carcere, ma tra un attimo riprendiamo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora, giusto secondo voi l'arresto di Alessio Burtone, che con il pugno ha causato la morte dell'infermiera Maricica rumena? Che ne pensate? Però l'87% dice sempre di sì. Voglio sentire Christian da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Senta, io comunque non sono d'accordo con il carcere preventivo in questo caso in particolare, perché secondo me non c'era pericolo di fuga, nel senso che da quanto ho visto nel filmato il ragazzo era lì. Questo nel però senso, lo decidono i magistrati, insomma, se hanno deciso, sì, se hanno sì, deciso però, così. Secondo lei non c'era, però il magistrato. Secondo me non dovrebbe essere previsto. Capisco che l'abbiano fatto perché comunque è, cioè, mai? Non dovrebbe essere previsto mai? No, in questo caso. No, in questo caso diciamo l'hanno previsto secondo me perché è diventato un caso di cronaca. Quindi ci mancherebbe. Però, ma perché, sì, perché dice non c'è, cioè, come fa lei a dire non c'è pericolo di fuga? Non lo sappiamo. Perché era lì, cioè, se voleva scappare già da lì sarebbe scappato, penso io. No? Quindi penso, per lei è la questione del pericolo di fuga. Ci sono anche. Sì. Cioè, a parte quello, comunque è il fattore che il ragazzo avesse dei precedenti, poi bisogna vederli questi precedenti, poi bisogna vedere se è vero che la ragazza gli abbia detto io ti spingo nella metro. Capito, ma questo che cambia? Cioè, nel senso che cambia, sì, certo, non è una bella situazione se uno ti dice mi spingo nella metro, però capisce. Comunque Christian, la ringrazio, questa è la sua opinione. Voglio salutare anche, insieme al vice sindaco di Roma, Ramona Badescu, ci ha raggiunto l'avvocato Fabrizio Gallo, eccolo qua, l'avvocato di Alessio Burtone. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, buongiorno. Ci spieghi perché secondo lei il carcere è una misura esagerata? Guardi, allora io devo dire che alcune cose sono state dette, delle cose assolutamente improprie sul caso di Burtone, perché ormai che il caso è assolutamente nazionale, è uscito alle cronache, ognuno poi dice quello che vuole, per esempio, senza avere cognizione di fatti. Sentivo oggi su Rai 1 la Falcetti dire delle cose. Vabbè, ma qua la Falcetti, la nostra cara collega. Però poi a uno si assume la responsabilità di quello che dice. E io vabbè, devo sottolineare una cosa importante. Burtone non ha precedenti penali e non ha carichi pendenti. Allo stato del casellario giudiziale non è assolutamente precedente. Le chiedo, una denuncia pendente al giudice di pace, perché il tribunale, ritenendo che non erano lesioni, l'ha derubricato. Okay. Quindi è questo. Uno. Due. Nessuno dice, purtroppo, che dalla perizia medico-legale di ieri, allora io, chiaro che la gravità del fatto è una cosa assodata, il gesto della manata, poi le dico perché, di andare via, sono atti sicuramente per noi ingiustificabili per il ragazzo, perché dice non me l'ho accorto che si era fatto così, ho avuto paura, sì, quando ho sentito la botta e tutto quanto. Quindi sull'atto e sulla morte della donna è chiaro che nessuno è d'accordo e nessuno gioisce per la morte della donna. Madre di un figlio di 3 anni, moglie, secondo me, grande lavoratrice, persona assolutamente, secondo me. E perché non deve, perché ci dica però perché non deve andare in carcere, secondo lei? Guardi, l'ipotesi non è assolutamente cambiata, anzi è cambiata in meglio, a parte la questione clinica, in meglio, perché in realtà non si può considerare più il violento pugno, in quanto sul volto e sul labbro l'unica versione presente che è stata definita dal nostro consulente di parte, poi aspettiamo quello del pubblico, però una manata è una escoriazione al labbro sinistro. Ma ho capito, ma avvocato, ma lei sta facendo quello che dovrà fare poi quando ci sarà il processo, porterà per la difesa del suo assistito tutte le... Nessuno si è accorto, scusate, che la botta violenta in realtà è una spinta con la mano sinistra, attenzione che il dito è girato, al contrario, allo specchio, lui non mena la manata con la sinistra, con la destra, quindi tutto girato. Avvocato, però mi scusi, non entriamo, cioè queste tecnicalità se le risparmi per il processo, quando dirà tutte le questioni la difesa, però ammazzato, pregiudicato. Ho capito, però insomma è la stessa descrizione del ragazzo, poi per l'amor di Dio la donna è morta. Non diciamolo come una cosa incidentale, perché non dovrebbe andare in carcere? Perché rispetto a prima dovete sapere, e devono sapere poi tutti i radioascoltatori, che il delitto preterintenzionale prevede la volontà della sola prima parte dell'azione, solo delle elezioni. Però non scusi, non avvocato, no. Allora le chiedo, vabbè, questa è la questione, lei sta dicendo perché. Le devo fare una domanda su. No, ma queste sono cose tecniche, scusi, mi faccia fare una domanda. Ieri ha visto i giornali quando sono andato a arrestarlo, la gente che diceva per una puttana di rumena, gliel'avrei dati io un paio di motivi. I motivi sono tre: pericolo di fuga, reiterazione del reato. Certo. Come fa un ragazzo stando in casa, se voleva scappare, scappava. Come fa se sta in casa e si è appurato che non scappa, a reiterare però il reato? La reiterazione del reato, lei mi ha detto che c'è una denuncia, no? Com'è la situazione, se no poi mi si arrabbia come con la Falcetti. Gennaio del 2010. Ho capito, cioè un episodio di scazzottata gli era capitato già in passato? Sì, ma non è andata a giudizio. Ho capito, però capisce che il giudice avrà detto magari è uno che in queste situazioni di tensione è portato a dare una manata, come dice lui. Ha emesso la misura cautelare per queste cose sopravvenute. Certo, per l'amor di Dio, tutte da accertare. Attenzione, che quando ci sono alcuni fatti si fanno tanti garantismi. In alcuni altri fatti, ricordiamoci che accanto alla signora Maricica c'era un ragazzo italiano massacrato da un rumeno in fin di vita come la Maricica, che era latitante. Allora io vorrei dire una cosa, per l'amor di Dio, è tutto deprecabile, ma il carcere a vita che la famiglia invoca si dovrebbe invocare anche per quella gente connazionale che commette degli atti gravissimi, cioè, delle violenze carnali. La mette su una questione etnica. Un americano con questo. Un italiano, fa un gesto del genere, si deve punire così l'italiano come il rumeno, l'americano, il francese. Sono tutti deprecabili questi fatti. Ho 10 secondi, avvocato, la devo ringraziare. Ramona Badescu vuole 10 secondi. Io so soltanto che il mento contiene una parte molto delicata dove si può rischiare con un colpo dato in un certo modo. Una parte, poi su questa non voglio entrare assolutamente nei meriti tecnici e medicali perché non mi competono. Vuol dire soltanto una cosa: ho conosciuto il marito, gli sto accanto, è una persona disperata che assolutamente non ha mai detto un pensiero violento verso la persona che ha tolto la vita a sua madre. Per lui l'unico problema è come dirò adesso al mio figlio che la mamma non c'è più. È un problema più che altro di emozione, di sentimento, anche di come dicevo prima, di educazione. Troppi nervi, troppa corsa. A Milano sappiamo c'è anche un tassista in situazioni diverse. Ovviamente un tassista che rischia la vita in situazioni però analoghe, insomma nate con diverbi analoghi. Vi devo ringraziare, mi devo fermare qui con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino e ci troviamo domattina 7:20.